salire sul taccar, la butto in terra, tanto c'era la stessa via di zia, insomma, di ricordo male, abita più avanti di zia Ligna, quindi. Sì, ma a me non interessava il cellulare, non mi interessava, non mi interessava, e lui mi ha detto, no, si visiterà e vieni, la togliamo. E invece, in effetti, di una settimana se n'è andato, e ha fatto una cosa, se n'è andato, e allora gli ho detto, la stessa. E niente, non so, c'è un capo, ma io ho preso il capo di un baratto, dove abitava mia sorella, e ho lasciato la Super Vecibus addirittura originale, il cavo 40 metri di LG 8 proprio l'originale americano, e quello buono, dove non sono neanche pensato a prendere niente. Mi sono andato a metto a casa e non mi ha detto nulla, se no prima di me se è sceso l'avrei staccato, invece non ho detto niente, ho lasciato lì la fanculo. Ci ho preso un'antenna bella e quel cavo di americano, il morbido, pazienza. Se non sbaglio mi si fanno una volta sola, la seconda volta non lo faccio più quello sbaglio. Non lo faccio quando uno qualcosa a qualcuno. Avanti Fabri. C'è stato un prezzo, mi fatto l'entrare. Avanti break. Cerco nessuno io. Aspetta un attimino, vuoi sapere come sta facendo il portatile? Fai una prova a vedere. Niente. Sta facendo benissimo, dipende dove ti trovi, io ti ascolto benissimo, dove sei, dove ti trovi tu. Sta facendo benissimo. A Franco da sotto, a me mi sta arrivando, mi sta arrivando benissimo con questo portatile che dice. Forse, vabbè, io sono più positivo per sotto, non so se ti ascolta. C'è Salvatore, Fabrizio, Salvatore, vedi un po' se riesci a ascoltare a Franco da sotto. Vediamo un pochettino, Franco da forza, venti, che provo a sentirti. Ah, non lo senti a Salvatore? Fabrizio, senti, manda Fabrizio a vedere cosa è Fabrizio. Fabri. Forse non c'è neanche... Dopo, vedi un po' se riesci a ascoltare a Franco da sotto. Oh, ehi, tu ci arriva qua. Ci arriva. Ma pure qua mi arriva forte, capito? Perché forse sono più in linea, io non lo so. Franco, non ti ascoltano a te. Non ti ascolta e tu non ti ascolti, sicuramente. Fabrizio si era sentato, poi abbiamo tirato troppo la lunga, e io quando schiaccio la portante sono di quelli che mi dimentico di mollarla, facciamo girare, vai Salvato. Salvato. Poi si sta chiamando Franco, guarda se l'ascolto. C'è uno spagnolo qua, sta chiamando 2:10. Si sentì a volto da me, fra, eh. E io sono più aperto. Okay. Capito, è più positivo, Salvatore, è più positivo per il centro. Ah, scemo, portatile che li ho trovati da capire allora? ma io sono ottava, hai capito? E forse un po' in linea, d'aria siamo in via. No, guarda, ti sto dicendo, signor Sanchez, Tiago di Otto, e la radio è ottima pure, dico che è buona, chiara, bella la radio. Voglio dire, non è il massimo del massimo, ma è bella, diciamo, è chiara, comprensibile abbastanza bene. Un Santiago di Otto, bello, ma... Franco. Ehi, capo. Guarda. Sì, va bene, adesso sono usato, grande. Scusa un attimo, sta modulando. Ah, ecco, non è portatile queste, il portatile allora, se quello grande allora è un altro paio di mani, io pensavo che fosse il portatile che sta dirigendo. Franco, cosa fai che avevo il portatile? Attenzione Franco. Ma se ti vuole entrare, chi è che vuole entrare in carriera? Oh Franco, io ti ascolto, anche bene, anche qua stai arrivando a picchi di 9:10, guarda se riesci a tirarmi fuori. Scappa che ti ascolta, Bronte. Ma qua stai arrivando bene, stai arrivando bene lo stesso. Evidentemente ci hai chiuso la zona un po' del monte, perché Salvatore a quanto capito non riesce a tirarli fuori. Salvatore. Negativo, non sento niente, io ho il corrente fisso a 6 in questo momento, non lo copio. Può anche darsi che lui non copi neanche me, eh? Ma dimmi che quello lì è un MC60, sì. Che qua? No, è il 43, però non è neanche mai stato usato, anzi, ho capito. Quindi penso che la performance sia dovuta un po' a quello. Una volta che trovi il bilanciamento con il Mick Gain, va anche una bellezza. Allora, spinge da Dio, nel senso sembra che stai usando assolutamente un MC60. Spinge benissimo quel microfono, complimenti davvero. Io Franco se riesci a sentirmi, ma forse non riesci a sentire neanche a me. Ecco, lo stai ascoltando Salvatore? No, negativo, Salvatore niente, non sento. Va bene, vai, che devo andare a trabacco, se no faccio tardi. Ce la riascoltiamo, dai, saluto a Salvatore, ciao Grode, ciao anche a te, e ci sentiamo per le prossime, dai. E saluto anche Antonello Pompunio. Papà di Roger, dai, mi sta salutando tutti, l'unico che lo sente poi c'è Gigi Vulcano, che le stava dicendo appunto che stava andando a lavoro, quindi un saluto a Salvatore, un saluto a Pompunio e gli ripasso Gigi, che è l'unico che lo sente. Avanti Gigi. Positivo, fra, fatti buon positivo della serata, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo nei migliori. Ma raga, ma il Fabrizio dov'è? Attenzione Fabrizio, e il signori, vi do una abbandonare e pronta la cena con me stavolta. Ci siete più tardi? Stavolta che vuol dire che oggi ti tocca. No, stavolta nel senso che abbiamo finito il ripasso e quindi è ora di mangiare. Va, gaba e caba Roger, buona carica batteria, sabato. Ci sentiamo dopo se coincide, con piacere. Avanti Gigi. E ha salvato dai fatti buona carica batterie. Se ne andiamo in Puglia ce la riascoltiamo dopo, dai, perché anch'io mi trattengo altro pochettino e poi farò carico batteria e anzi vabbè domani già mi alzo alle 5, alle 6, sono le 6, no alle 5 mi alzo, come fa? Devo andare a casa del sabato, mi alzo alle 6. Padre Roger, mi sa che vi saluto anch'io Gigi un attimino perché si devono venire ospiti e come al solito mi hanno coinvolto nella preparazione della cosa. Fabrizio, è già andato via? Non lo so, sarà tentato, non lo so, non c'è, forse ho rimasto no, oppure c'è rimasto ancora niente dai, va bene, anche se devi, se c'è gente, amici, preparare, fai tranquillamente, dai. E poi se coincide più tardi, dai. Molto volentieri Gigi, dai. Buona carica anche a te quando la farai, ci sentiamo dopo. Pompunio è un omosessuale. Ti ringrazio, così ti porta a parlare, grazie. Dai un bacio che ti voglio bene. No, voglio baci a te. Cane morto. Comunque sono stato a Franco. Ciao Franco, se ci sei ancora. E tutti quelli che sono andati via. E poi forse sono tutti attentati, dai, io prenderei 2 minuti e poi mi attento pure io per un attimino. Gioia. Oggi proprio non c'è nessuno in giro, tutti, vabbè, io sono stato poco fa a Barocchino, quindi sono andato da stamattina alle 8 e sto lavorando fino a mezz'ora fa. E noi sono tutto presto stavolta. Prestissimo, molto presto. E sono in grado, non solo, ma non più delle 6 e mezza, pare no, oltre le 6 e mezza, non so se è la sua, è pulito, Che sono che sono andato alle 5 e mezza, 6, e poi sono andato a lavorare alle, c'è una cosa dell'altra. Alle 7 e mezza sono uscito da casa e alle 8 ero lì. Arrivo lì e invece non era nessuno, mi ero dovuto fare tutto da solo. Poi da lì sono andato a fare un altro lavoro e sono uscito alle 7 e mezza, 8 di sera. E guardate tu, ho fatto quasi 14 ore oggi, di fila. Io perché non ho fatto un po' lì. Fatto bene, vabbè, ogni notte iniziato a stare a letto presto, non sono tanto a letto tardi, sono andato molto presto a letto, c'è un disaccordo di alimentazione da parte dei finali. No, no, no, quando parlo io, no, quando parlo io va in positivo, quando parlano gli altri va in invece non sono in negativo, però lui lo dà in negativo. Che strano, non l'hai mai visto una cosa del genere. Più picchi c'ha e più negativo. Non ho capito, non lo sappi, non lo... È un fotofizio, è un barattino vecchio, ma picchissimo, è infatti no... Non l'ho mai fatto, portato mai a fare toccare, l'ho lasciato così. Perché ho visto che non va più di 4 watt e non l'ho voluto toccare, non l'ho toccato, però giustamente se sarà al modo giusto non potrebbe andare anche meglio, però non l'ho mai toccato sicuramente, non l'ho mai portato da nessuna parte, se lo sempre qua, da... poi ci sono dei canali che no. Non ho capito perché mi salta, dove vanno a finire. Arrivo a un certo punto, no, fino al 40 va benissimo, fino al 40, poi inizia al 41, mi pare, sembra che va bene, 41, 42, 43, 44, poi 45 inizia, boh, non si sa che canale è quando esce il 45, capito? Poi se viene il 43 entra il 45, può rispondere al 45, e poi... vai a girare, non sai più dove andare a finire, dove sono, che canale si, capito un po'. Però tutti quanti i 40 canali sono perfetti, va bene, dai. Vede, sai che se va oltre, no, non sono più, non si sa dove va a finire, non ho capito mai. Arriva fino a 200 canali, arriva fino al numero 200, però non si sa dove... non si sa nessuno e non si sa di che canale e cosa corrisponde, capito? Sì, c'è una palatina strana quello, a volte capitano. I nuiti facevano così, quando facevi la modifica, andava su 41 e corrispondeva a 42, andava su 43 e corrispondeva a 46, è un casino quello. I nuiti volevano vecchi, ma come erano più visti in giro? Siamo a disporre per i cecchi. Sì, ma questo non mi farà che comprendi. Tu hai prima, non prima funzionava con Pastorini, con cosa che trovavi in internet. Faceva un blocco di baracchini, te ne dava, non so, 4, 5, e la radio professionale, cose così, diceva anche questi baracchini, così per pochi soldi, e te ne mettevano in mezzo, capito? Però non sai cosa c'è dentro, capito? No, questo è un regalo che ciò mi avevano regalato, e con la verità, un attacco allo strumento, dicevano 4 fatti, non sale un pelo in più, la zona. Poi provate a controllarlo da dentro ed è al massimo, se posso lo posso abbassare, aumentare no, più di 4 non va, abbassare può ma aumentare no. Poi c'è un finale da 19,69 dentro, finale da 19,69 quello da 24. Che perché hanno eliminato i 20,78 e ci hanno messo i 19,69, ecco perché ti dico, anzi te l'avevi meno, te l'avevi. Se c'hai con il pilota il 23-14 e c'hai il 19-69 non va bene. Quando un apparecchio nasce con il 23-14 e il 20-68, 15 fatti ti dà punto di tunnel, ma se li metti il 19-69 perché sei convinto che ti dia più guarda, assolutamente. Anche perché il pilota deve essere molto più grosso, devi cambiare il pilota, se mi cambi il pilota naturalmente il 19-69 ti dà di più. Perché quelli neanetti, piccolini che chiamano booster, montano il 19,69 come finale, secondo te? E c'è un circuito dentro, quando c'hai il 23,14, 20,68, esci con 5 watt, naturalmente con il 19,69 te ne dà 30, ma te ne dà tutti i saturi. Massimo può uscire 20-25 watt, è chiaro. No, ma non lo so io se questo è il suo originale, quello io l'ho visto, non so se è il suo, se è uscito con questo cosa, però io ne ho comprato nuovi di apparati, c'è il 1979 sotto, ne ho comprato nuovi, e ne ho un altro, allora ne ho comprato uno nuovo e ne ha due, ne ha 1989, ma due. Poi c'è quel, ti avevo detto, ti ricordi quel George famoso? quello ne ha tre addirittura, però penso che sia nato con questi nati, credo, credo che sia nato, non siano tanti altri, che sia nato con questi nati, perché tanti di quelli, tipo il brutto, quelli che ci hanno 19 dalla casa, sono nati solo 1969 di finale, capito? Comunque, se tu, per dire, un 3009, un Galaxy Plus e cose del genere, in pratica, come pilota c'è 2166, il tuo 1969 li metti da MRF 477 costa 50 euro, il 20 di pedinatura è in pratica perché sono diversa, la pedinatura è diversa, però funzionano bene. In pratica la parete ti tira fuori quasi 30-40 watt, hai capito? Lui è la parete che pompa di più, naturalmente, perché la monta al President Jackson, se tu al 2166 a posto di mettergli l'MRS 477 invece 1969, naturalmente a posto di altri 40 watt ti arriva solamente 10-12, non di più, hai capito? No, stai sbagliando, quello mio forse originale, io non l'ho mai portato nessuna parte, e ti dico che un giorno l'ho provato con te, ti ricordi, ma adesso tu l'ho aperto e l'ho provato con te, e da tre finali non me ne era accorto, se l'ho messo per finali, le altre non so, il pilota, come lo puoi chiamare, tre finali, le altre non so, sono anche altre, però mi sono presinare il 99, ti ricordi che il tipo AM di un po' più facile, noi come hai spiegato tu, e poi c'è la FM che non usciva passo passo, non va avanti, e io ho perso tutti i vati, ho tirato quel trimestrale, ma portatemi anche a 40 watt, portatemi anche. Però abbiamo provato, ti ricordi che c'eri tu, e la radio a 40 watt andava in saturazione. E allora l'abbiamo abbassata fino poi fatti tutta la mattina, l'abbiamo abbassata anche per la città, una cosa del genere, ti ricordi questo particolare, infatti, però io l'ho operato con il pomello, con i fatti bassi, con quattro fatti, l'importante è anche a questa cosa, da qualche piccolo tipo di difficoltà di stare, però la radio è più bella, capisci, di andare con lo, di aumentare, di aprire di fatti, capisci, c'è più bella quando sei in strategia con quattro fatti, con lo stato. Logico, la radio è più bella, una volta che tu piloti come non va, c'è molto più forte. Ti ricordi Giuseppe quando volava dalla macchina con il Galaxy Pluto? Messo al 2,5 watt con il bicicletto 50 e dava 50 watt massimo, era una bomba, allineato bene, era una bomba. Poi anche addirittura anche col 2009 aveva fatto la prova, addirittura con il 4005, figurati tu, quello di Alghero, era un bicicletto, perché era allineato come si deve. Il Galaxy Pluto monta tre finali, mentre il 3009 e il Cornes 4005 ne monta due. Però questo è il altro, questo sono baratissimi, sono montati, sono baratissimi. E secondo me non è una corona del professionale, 440 o 140, sono quelli super radioli del potenziale, non so, 70 watt, 75, ma mi sembra bene, io sono specifico di baratissimo. Il cambiaggio in finale a farla arrivare come è tutto, non è tutto che fa questa, quindi va non c'è nulla, perché non serve a niente, perché se vuoi un po' di potenza in più ti attacchi un signaretto, perché l'imparazione per andare con due fatti fatti, quattro fatti va benissimo, hai capito, comunque esce la radio più bella. Se tu invece inizi a dare 10 fatti, 9 fatti, così attacchi un linearetto e c'è tutta quanta sassura e ti mangia la radio. Invece il baracchino deve uscire con 4 watt, anche 3 watt, facilmente. E invece c'è la radio, va bene, è più bella di radio, poi ci puoi dare una riunione a parte, e la radio non lo sa, meglio di essere, diciamo, questa regolazione, perché se già non ho fatto il baracchino watt è cessato, lo porto a, ho visto se vado oltre 20 watt e inizia a, a mangiarsi la radio, e tanto vale che sono 4 watt invece sono la meraviglia. La pizza se ha bisogno era un po' d'aiutino a parte, però la radio almeno è sempre con bella chiara e comprensibile, capito? Forse mi ascolti, io vado a caricare, fare più carica di batterie. Sì, capo, mi hanno chiamato un secondo telefono e sono entrato. Vabbè, dai, ci stiamo a limite dopo, cioè dopo, a limite domani, dai. Se fai carica poi ci stiamo a limite domani, dai. È in posizione di questa, mi sarebbe piaciuta tararla bene, anche con i suoi 4 watt, è proprio tarata giusta, tarata bene, fatta allineata bene, mi sarebbe piaciuta questa qua, questa sto modulando adesso, è lasciata anche con i 4 watt sui, che 4 watt va bene lo stesso, però se ne la meno così, però per l'allineata è modulata, lo voglio fare questo. Perché va in fase laterale, c'è le fase laterali, 40 canali tranquilli, e le FM, le cose così, e non me ne vado, solo queste cose così. Sì, ma c'è una parecchia, là. Stai scendo bene, non è che stai scendo male, sei perfetto. L'altro è l'unità, adesso vado a mangiare anch'io, ci stiamo al limite o domani o se no dopo sente. Buona cena, buon tutto, ciao, a dopo. Via, ciao, ciao. 10, cambio. Buonasera. Prendiamo a dopo, c'è stato un popolo, ma non so più. Hola. Mi sentite? Ma tu, sei tu? Io sono, io sono. Ciao Aldo, sì, ma mentre poi RM, già io gioco un pochino che non so se con 4 watt si riesce a tirarmi fuori. È un po' basso a mezzo a quel RM, sì, perché c'è un po' di quel RM, Aldo. Adesso ti sento proprio basso basso. Che capa! Ma cazzo sta segnando un po' di giocoso. Oh, hai una mara, vai. Hola. Mi sentite? Sì, Popo mi sente? Popo si sente più di me, lui è più vicino a te, ma forse anche lui è andato a cenare a tu, perché anch'io sono andato a fare carica batterie a tu. Sicuramente Pomponi è già andato a cenare, l'ho salutato adesso. Gamba, ma non trovi difficoltà a copiarmi, se no attacco l'altro più mazzo. Attaccalo dopo, che è da bel tempo che faccio una carica batterie anche io. Infatti stavo salutando a Pomponi, anche lui è andato a fare carica batterie. Attaccalo pure al limite, dammi tempo di fare un po' di carica batterie, frattempo te lo cambi e poi già qualche chiacchierata ce la facciamo, dai, un altro 10 minuti, mezz'ora di chiacchierata ce la facciamo. Che scappa, vedi, ti passano pure a te lui, pure a te passano, sono un bel forte, sono, ma forte però. Ma io non ce l'ho, questo non potevo, non faccio altro, io questo non però, dai. Andrà bene, altro dai, che faccio carica batteria, a dopo dai, datene un attimo di farmi un giro intorno al tavolo e togliere pure il gatto. Pagamma, lui non c'è nessun problema. Cavolino, ok. Ok. Vai, vai, non c'è nessun problema, lui. Insomma, è possibile. Capito, vabbè. Buonasera, tu lo stai fischiando? No, stavo provando, beh, come stavo uscendo. La laterale? Via. Yeah. Chiamma, e ti ho dato mettere in combatto, tanto. L'ho misurato io. Chiamma. E beh, come va? Ero una di centrale, quindi sì. Certo, ti ho detto ieri, ma stavo facendo cosa, dai. E chiamma, una brutta notizia, tanto. Mi hanno rubato l'antenna della macchina, lo sai? Ma cazzo se ne facevano dell'antenna della macchina tua, culo, salta, però. Lo danno ciò. Da sotto casa ce l'hanno portata via. Se pure anche ce la attaccane. Ma cazzo se ne facevano. Ma cazzo la roba a parte, guarda. Veramente, roba a parte, veramente. Ma com'è che non c'era il baracchino, hai capito? Non c'era questo qua. Se no ci avevano pensicato anche questo. E ho dovuto cambiare le portiere, le serrature delle portiere della macchina. Mi sono costate più dell'antenna. Perché ci hanno spaccato la macchina? Mi hanno aperto la macchina, hai capito? Mi hanno sfondato le serrature. La puttana, hai capito? Oh, yeah. C'è di buona donna, guarda. Hanno le ciabatte. Le ciabatte, grazie. Certo che mi avrei tagliato le mani, questo era zitto. Lui, Cassano, non se ne sarebbe andata la notte, perché l'avrei fatto andare insieme a carrozzella, questo è garantito. Papà, ma guarda che c'è un... vai a informarti, c'è una specie di antifurto che si mette nella macchina. Praticamente se qualcuno se la apre, se la fa, subito si azione, si suona il telefonino come allarme, hai capito? Ho sentito che c'è questa cosa qua, cioè bisogna che si informe. Praticamente è un sistema che parte quando uno ti apre la macchina, la cosa, parte in questo sistema, ti manda l'allarme nel telefonino, ti manda subito e tu vai da Ciappi in chiesa. Lo so, però non so dove andare a informarmi, io non lo so. Dici che fanno allarmi per auto, per cose, devi andare a informarti da questi qua, devi andare a informarti. A vedere se ti possono installare un congegno del genere. Per esempio per certi posti, per certi locali, è così, abbiamo anche noi i depositi, così. Praticamente non suona nel tuo telefonino, suona. E tu apri chi ve la ciappi subito, che stanno rubando, hai capito? Ci sono dei sensori, si vede che il deposito è fatto così, ci sono, io sono detto, ci sono anche per la macchina queste cose qua, ci sono dei sensori, tu come ti apri, entri dentro, poi ti squilla il cellulare, tu apri il libro, mi ti chiedi di fuma, giusta? E capa, informati Anto, era tuo principale, dove fanno questo lavoro e mi fai sapere, al limite ci andiamo assieme e ci informiamo, dai. Vabbè, quello lì è fatto per il deposito, loro non lo so se lo fanno per la macchina anche, però so che c'è gente che lo fa anche per la macchina, è un po' costoso, però ne vai a passare un macchina che portano in capo tutti gli altri. Vabbè. Non tanto per l'antenna, è per il danno, ma l'ho fatto per la macchina, hai capito? Certo che le serrature le ho pagate 150. 50 euro, hai capito? Compresa l'IVA. Cioè, 150 euro toglie da me, che non sto lavorando, sono una barca di soldi. Già, ma caso 102 è particolare con la macchina. Non sta nemmeno un duro verme. Ma l'ho avuto veramente. Manco male che il baracchino, quello là, il Galax, me l'avevo portato a casa con l'alimentatore, avevo avuto quel coso di genio di portarmelo a casa, se no mi avevo fatto anche quello. Scappa. Però questi stronzi qua bisogna pizzicarli, bisogna pizzicarli questi stronzetti. Non è vita, è congegno, un cazzo, e fa vera paga cara. Giustamente, tanto è quello il discorso, è lo che vuoi dire. Non me ne sono accorto, cazzo, perché se poco a poco, cazzo, inizierei a fare e aprire per il momento, c'ho il vizio sempre di, quando mi alzo, di verso l'una e mezza, le due, di andare fuori a fumarmi la sigaretta e vedere che stavano prendendo la macchina, anche i mutanti ci sono scesi giù, Papà, l'unica cosa è prendere quello che c'è, il mattone, quanto esiste, subito dalla campo, papichino, puro burchese. E capa, vabbè, ormai è andata, dai. Tanto non va lungo quella con l'antenna, sta tranquillo che tanto la riconosco perché sono delle cose che ho fatto io personale, dunque la riconosco al volo. Ma magari pure la gente che non fa neanche l'autorità di quella roba, c'è pure niente in mezzo ignorante. Vabbè, comunque, io te la riconosco, se la dovessi vedere, te la faccio tutto, insomma. E capa, guarda che nel coso sopra, dove c'è il coso dell'antenna, in quel coso, una specie di cerchietto che c'è, di ferro, ci sono un paio di iniziali, c'è, l'iniziale c'è GP, capito, popolo? Ma già la conosco io, non ti preoccupare. No, già la conosco io. O magari hanno detto un cazzo che verrà pure un baracchino. Capito, loro hanno pensato di cazzo. Ma l'antenna ci sarà il baracchino, ma si sono attaccati dove dico io. A un cazzo si sono attaccati e ti hanno preso. Questo baracchino ve l'hanno detto. Ma hanno pizzicato solo l'antenna. Ciao. Infatti stavo detto un'altra cosa, sarei come prenderne uno di quelli piccoli che sa che solo lo spinotto sa che se porti a casa. Se sa che due spinotti, perché questi qua c'hanno i cosi, c'hanno. Proprio questo è fatto così, c'è lo spinotto aggiuntivo. Sacchi tutto e ti si butti tutto a casa, non tocca nulla a nessuno. Appunto, perciò li ho fatti così, ho due banane, capito, due banane, che io li taglio gli spinotti e me la porto via, capito? Però io sto cercando una plancia distraibile, capito, distraibile per il baracchino, che posso infilare il baracchino, quando mi serve l'attacco, quando non mi serve lo ritaglio, capito? Papà, ne avevo avuto io uno che c'aveva qualcosa, come si dice, c'era la frontalina traibile questa radio. È una simile cosa, hai capito, con la cosa traibile. Almeno, una volta che c'è il filo dentro, non faccio altro che solo attaccare i cavi e l'antenna. Non faccio altro. Attacco gli spinotti e il modulo. E poi quando è, gli distacco lo spinotto dall'antenna e il baracchino me lo porto a casa, hai capito? Ma se no ti do un'altra soluzione, una dritta, ti do. C'è un baracchino, non so se l'hai visto da Fusaro. che si mette sotto, lo puoi mettere dove capo lo vuoi tu, anche un po' dispensabile. Sotto il culo, dove vuoi tu. C'è una specie di prolungaccia nel microfono. E praticamente lo puoi nascondere bene, lo puoi nascondere, non so se l'hai mai visto. Quell'altro, l'ultimo, quello da 110 euro. Cioè, lo puoi mettere dove cavolo vuoi tu, e c'ha tutti i comandi nel microfono. Quello è interessante, perché da poi tu magari non puoi contare di dire le cose, non lo troveresti mai il baracchino. Vabbè, però adesso il baracchino non mi interessa, per adesso lasciamo questo e basta. Adesso mi interessa procurarmi una penna a quei fritti e ripiattarlo in macchina e vediamo un po' se riesco a ordinarlo su internet, una BL800, penso che costerà intorno alle 30 euro, capito? Vabbè, quello lì è interessante, perché te lo nascondi l'apparecchio, cioè non lo trovi mai. Se lo metti in posti, lo puoi mettere in posti impensabili della macchina, anche in doppie cose, cioè è fatta apposta, i comandi ce l'hai nel microfono, tu lo ritiri e non si vede niente. Magari te lo puoi mettere sotto il sedile, c'è una specie di prolunga che fa tutto dal microfono. Tu accendi e basta, accendi dal microfono, accendiamo dal microfono, tutto da lì fa. Il microfono lo puoi nascondere lo stesso. È di giornale in weekend, se te lo puoi giocare il sedile, giocare a qualunque cosa, perché anche è piccolo come cosa, capito? E K, adesso vediamo tu. Devo procurarmi i soldi, e se no pazienza e lasciamo perdere, poi comunque il resto tutto bene, sì. Ah, tutto bene. Gamba, ma mi senti bene a casa tua, sì? È un apparecchio senza modulare. E mi servivano 9.40 qua. Yeah. Come ti sta arrivando con questo qua? Se è voluto dei posti, se è 9.30, 9.30 ti stava arrivando. Quanto segna quello che dice? Quando è tutto largo ti scende? Gamba. Vabbè, siamo abbastanza vicini. Vabbè, comunque, 9.40, dai. Sì, 9.30 picchi positivi, dai. Sto utilizzando solamente 4 watt. Io cosa sto usando? Mi sto usando 3 watt e mezzo mi qua. Watt? Ma lo stai usando? No, l'ho messo un po' a riposo, hai capito? Adesso usiamo questo qua e poi piantiamo nuovamente la base. Bene, la verità funziona molto bene, bello grintoso anche. Questo io ce l'avevo, me l'hanno dato da poco, me l'hanno portato perché era Cagliari questa cosa, hai capito? Era Cagliari e hanno fatto delle piccole modifiche e dunque hanno messo lo switch nuovo, tutto quanto, e poi hanno fatto le cose dentro la palazza, capito? Casa. E comunque pompa quell'apparecchio. Cazzo, qua si vede anche il segnale molto forte. Vabbè, la parte dell'apparecchio, quello che conta è l'antenna, tu, è l'antenna che è tutto, è il cuore, capito? Sempre lì c'hai, sì. E me le stazionarie a posto sono tornate. Alla grande, 1 e 1, non si sposta. Ce l'ho attaccato, 1 e 1, non si sposta da un millimetro. adesso io dopo che aggiunga li passa, ma perché non c'è il solo, mica succedono queste cose, sono stati altri appositini che uno può muoversi un pochettino appena appena, ma si muove sempre quando c'è umidità, magari qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma è così, tra voi e tu io, però che andate asciutta non fate più nulla. Vabbè, l'importante è che sta girando bene poi, guarda, sono contento di questa antenna, e c'era la popolazione stasera, ho sentito Reggio Calabria, poi Lecce, Roma, Napoli, capito, anche la Napoli mi arrivavano qua. Ma arrivavo, la radio era bella pulita, 5, e il segnale, vabbè, 5, capito, però stai parlando a Coso, a Napoli, capito, arrivavo il segnale 5, radio 5, capito. E dipende, puoi arrivare anche a fondo scala, dipende com'è la propagazione, no, non c'entra niente quello. Poi potresti arrivare anche 9.30 a fondo scala, dipende. E poi c'era anche Cosumi, Massimiliano Bulldozer, lui arrivava a fondo scala a Coso, a Reggio Calabria, 9.30, dice abbassami quello Smith, quel microfono, mi stai spaccando i timpani. E vabbè, pure tu volendo arrivi 9.30, basta metterti qualcosa e vedi che arrivi 9.30, forse superi anche. Adesso vediamo, tu. Adesso per adesso lasciamolo vivere, poi più là si vedrà, perché le cose materie prime già ho detto, mi sono partiti quasi con questi soldi per colpa di questi pezzi di merda, se no mi avrei già preso un bel, quei soldi li avevo conservati per prendermi un bel lineare da 100 watt, capito? Te do un consiglio, ti do, se lo devi usare a casa prendi uno di quelle a valvole, lo dici a una persona, lo dici come vuole accordato e vai alla grande, vai, ed è molto meglio di un transistor per casa, capito? Magari quelli da 100 watt, tipo più di 131, la ragazza ci vuole. E che non so, lo so, no, appunto perciò ho detto, dovevo prendere questa cosa qua, ma è come lo fare, accordamolo da, già mi è capito da chi, e c'è da fantomi, e me l'avrebbe lavorato lui, capito? No, ma... Sì. Beh, te lo devi regolare tu, devi capire tu, perché così vanno, quella valvola vanno accordate, quando è, se poi quello fai scaldare, quando è pronto, attacchi, oioia, ma sai perché, se lo, ti do più un consiglio a valvola, perché sono in meno che danno noi, hai capito, come trasmissione, non hai di... hai meno difetti di quella transistor, dipende, dai, ha una modulazione molto pulita, cioè non c'è differenza, non c'è, capito, però vanno bene lo stesso, se prendo 747 c'è un buon alimentatore, va bene lo stesso, però quella valvola è malata, è più arretto. E cappa, già lo so. E vabbè, trovandolo, adesso vediamo, sul computer me lo faccio cercare da mio nipote, se riesco a beccarlo, seconda mano, secondo glielo faccio ordinare. Neanche con la valvola esaurita, vai da San Fusaro, un gatto della Faisale, mi sembra che sia l'unica, quella, e te la metti nuova. Capa, adesso vediamo, la vediamo a tu. Tutto il discorso la materia prima, poi se mi entrano i soldi che mi devono entrare, mi devono spedire da una persona, un parente, e dunque cerco di farmi un piacerino, capito? Se riesci a farlo, meglio così, guarda. Meglio così. Ma non è entrato nessuno, le oggi. No, non c'era nessuno. Io ho cercato adesso, stasera ero su 45, 47, 50, e stavamo lì, c'era quelle popolazioni, dunque sui canali bassi no, sono entrato poco e nulla. Gappa. Ma ti volevo dire una cosa, ma mi sta passando la mente. Già ne parliamo quando siamo verticale, ma certe cose preferisco dire verticale, non al barchino, che non deve sapere niente nessuno. Certamente io non sto scherzando, io ti preoccupare, mi può fare una chiacchierata sempre, già lo sai, io quando sono libero. Per quella questione volevo chiederti se ce l'avevi ancora quella antenna che mi aveva fatto vedere una volta in incontro, in negozio. Non ce l'ho più quella lì. Ah, non ce l'avete più? No. E va bene, non fa nulla, dai. Cerchiamo di procurarne un'altra a quei prezzi, che capito? C'è un problema che sta quella lì. E vabbè, l'avrei risolto io, che avrei portato una persona, me l'avrebbe sistemata come Dio comanda. Ma in colpa ai reni micidiale, porca miseria. Sì, capa, stai attento. Nora Marao. Va bene, dai che ci sentiamo limite più là, che adesso faccio quelle dia, mi guardo un po' di televisione, perché domani alle 7 devo scegliere in terra, entro alle 7:30 a lavorare domani. Ah, che lavoro stai facendo? Sono alla scuola, a Piazza Lardi. E poi, come ti hanno assunto? No, è quello 3 mesi, capito? 3 mesi, 3 ore al giorno, faccio il martedì, giovedì e venerdì. Ma è possibile che uno debba lavorare con il cazzo? Tanto non ce n'è più, sto mandando curriculum a destra e a sinistra per adesso, poi anche per l'estate, adesso dalla settimana prossima mi farò un giro per la zona del mare, hai capito, zona di mare, l'isola rossa, a Corso, Alghero, Tintino, perché finito questo mese qua sono nuovamente a cura terra. Ah, vai in quelle zone lì, Leonci, vai in quelle zone lì, cazzo. Chiedi anche delle cose in costa lì, cavolo. Devi farti i fatti e boh. se devi stare 3 mesi fuori, vai, che altra cosa, c'è una situazione che non, che proprio non ci può, non ci può. Appunto perciò mi devo andare a fare adesso, la prima tappa della settimana prossima, con me c'è l'Argentino e poi voglio vedere, comunque posto che, vediamo, bar, tutto quello che c'è da fare, bar, quella zona lì, il pulitore, mi faccio tutta quella zona lì, capito, mi parte della piazza, se stanno cercando baristi e tutto quanto. Ma vedi la possibilità che dici che è sviata, mamma mia, voglio riaguare, certo, no, non c'è un po' più tu. Questo governo del di cacca che sta ammazzando tutti, cioè la gente non vuole più fare niente, proprio se tu noti anche il traffico non è più quello di una volta, perché ognuno la macchina la usa, cioè, meno possibile la usa proprio, non è cose più necessarie. C'è gente che so che stanno andando a lavorare in trappola e che dice, cazzo, prendo la macchina, cosa ci rimetto? 1,60 euro di benzina, spendo 1,20 euro, spendo e prendo il biglietto del trappola. E non consumo né gomme, né olio, né un nulla. Perché bisogna metterci anche quello. Qua stiamo arrivando proprio allo spazio, se non si muove qualcosa in occhi siamo possibili. Oioia. Vabbè, certo, oioioia, per carità, per carità. Vabbè, dai, ci sentiamo prossimamente, dai, allora, ciao, buonanotte, ci sentiamo tutte le prossime, dai. Da. Chiacchierata, va. A Roma qua che va a andare su poi, sa parecchio che era un po'. Vai, ok, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Sì? E beh, tu? Sitela. Buonasera. Allora. Allora. Bravo Daniel, come fa? Tutto a posto, e tu? Io tutto a posto. Ah, l'altro giorno stavo facendo un discorso. E di chi? Lo tuo. Mio? E riguardo a cosa? Ah, sa, ma perché l'hai te? Eia! Iai. Ti riguardi, riguardi per coniugarti. Ah? Ti riguardi per sposarti, ieri. Ero. Ah, così, ma fai come me, cazzo, ma lasciale perdere quelle lì. Trovo una persona seria, troppo a troppo, che... Venga qua vicino a me e poi sente, là. Ah, vero sì, ho bisogno di fare un gruppo. È qua, è qua. Tu non hai detto che... non ce l'avevi più. Ah, oh, che c'è? Ah, ascolto. Ma perché non me lo dici allora? Purtroppo è così, dai. Allora scusi, scusa. Già va bene. Mi intendi questa zona? Cosa tu? Senti in quella zona, lo so che rivende tutto strano. No, già stai arrivando bene, dai. Sei 5 radio super 5. Sì, ero Santiago 5. Sto usando 4 watt e sto usando. E così mi segna questo. E vado, sta arrivando lì. Spara tutti, più forte mi sta arrivando, ok? C'è il 9 radio 5, già passa, dai. Ah, ma sto usando un maracchino normale, non so se li ha mai visti. Farfagliette 6 ultro, quelli che vende Fusaro. E questo è una radiolina, M. Che radio è? Eh? Che radio è? Un Intec. Non è buono. Va bene, per la truppa. Non lo vedrai più. E quale? No, ma ragazzi di Giappa. E beh, lugari è? Intec. Allora, l'Intec è 4 watt. Sì, là, buonasera. Ciao, Gian Valeria. È un reno di prendi, Luca. Luca, caca. Quel cazzo. Grande. Cosa ho capito, tu? C'avevo il capo ancora. Ma chi io? No, cosa? Ah, allora, ammalava. Daniele. Da. Ecco. Davanti. Ammazza questo ecco tu. Giù. Ma parte di schiaffini da. A parte della parte di schiaffini, non si capisce, si è impastato. Non si capisce niente, cosa cazzo hai detto? Ho detto che sei un po' impastato, abbassa un po'. Sono tu! Non ti capisco, Adesso com'è? Guarda un po'. C'è un'altra stanza. Ah, così, allora senti quello. Senti quello che va bene. Ciao pagava, andave. Luca. E Mariello. Luca si è fuggito. Ma Dani, tutto questo tempo, lavorando, sai. Stavi lavorando, cosa? Cosa stai facendo di bello? Stavo lavorando anch'io, non c'avevo tempo, adesso già ne ho di tempo, ogni tanto accendo. Antonio Conte. Tu. Oh, Dani è stata a fare un preventivo per una chitarra a spalla mancante. È un amplificatore 220, bella, Ma nuova? Allora. Già va bene. Se mi metto, mamma mia, guarda, ma sì, lo mollo computer, baracchino, tanto è. No, oh, vabbè, baracchino, no, dai. Io sono la cantante. Vedi, c'è una cantante, c'hai, Lu. Cosa? C'è una cantante. C'è una cantante? Allora, hai già fatto una cantante qua, dietro le quinte mi ha detto, c'è una cantante. Anna Ossa, c'hai. Anna Ossa? Anna Ossa. Oh, cosa sarete, Daniele? Sassare, ti hai cantato tutto! Va bene allora. Ciao! Ciao! Come sei a casa, Daniele? Ma sei uscito? No, oggi abbiamo mangiato a casa. Aspetti, sono anche un'altra persona, Lu, aspetta. Ciao, Lucani! Stefano, vabbè! No, sono Regolo, non Stefano. E vabbè, io mica me ne ricordavo il tuo nome attivo, annaggia a te. Come stai? A posto, grazie, e tu? Tira avanti con i miei dolori, però tira avanti. Ehi, sei giovane ancora, Ste. Ehi, Dio ti sente che sono giovane, Lu. A chi lui ci sei? A che? Hai passato il 60. Ehi, ma, uia. Ascolti, ne ho più acciacchi di te, Stefano. Ehi, saluto la ruota, Avanti, il bombolo. Papà, saluto il regolo. Ciao, salutoni, bombolo. Ma, se era una bicicletta in distica. E da quando la stazione di mio figlio io l'ho mollato tutto. E vabbè, ma già fa sempre piacere sentirti, dai. Grazie e ti contraccambio. Salutoni a tutti e alla ruota. Ciao ciao a tutti, buonanotte. Ah, buonanotte, regolo. Avanti, Luca. Parato, DJ. Luca. Ecco, ora l'ho messa, ti aspetta. Eia. Oh, iaia, andava, dai. Stavi lavorando un periodo. Ehi, Antu, stavo lavorando e quindi non... non c'avevo più tempo, dai, di entrare, di fare, tornare a casa anche la tardi e quindi avevo mollato tutto. E calma, stavo dicendo... ma sempre lì, come si dice, sempre con lo stesso lavoro o stai facendo altro? No, sempre lo stesso lavoro, dai. Però dall'altra parte sono tornato nuovo qua. Ciao, è una misericordia anche se sei andato. Sono lì adesso. Come dici? Già. È bello, dai. Già è bello, dai. Ti deve piacere per poterlo fare. Ma voi ci avete anche una... nera che va lì. Cos'è che abbiamo una? Una ragazza di colore. Cava, già c'è, la nuova entrata è. Ma cos'è carichissa? Boh, che anzi, la conosco così, cioè la di vista, non più di tanto, e chi è? È la moglie di Ilario Fusaro. Ah, quelli del 4 novembre? Inizio. Dello figliolo, dello pomaro vecchio, che è morto. Fender, se lo manno, dai. E quello lì, sempre sono proprio loro, sono. Adesso l'ha preso la sorella, l'ha preso il negozio, va bene, società, proprio il fratello, penso. E sono loro che... è la moglie del figlio, è americana, non è neanche nigeriana, è americana. Ehi, hai c'ha anche una figlia, c'ha? No, c'ha un bambino, c'ha. È proprio curioso. Sì, vabbè, bambino, ho capito. No, già in gamba come ragazza, dai. C'è alta, Ehi, alta e magra. Ah, già riconosco, non preoccupare. Ragazza, domani è di turno. Comunque già riconosco tutti, riconosco la voce, riconosco perché insomma sono clienti nostri, sono clienti nostri, poi riconosco perché compro caffè e roba lì, ho comprato un sacco di roba lì. Cava, apro compreso, dai. Luca, sei rientrato? Ha ripreso. Riprendi tu. Certo. Ma uno ci può prendere pari meo, forse. Ma mi conoscete tra associazioni? No, dipende, Antu. Dipende. Se li vediamo spesso, sì. Ciao. Se tu dici la Croce Blu, riconosco quasi tutte. E che è il principale tuo, la Croce Blu, È un presidente. Daniele si chiama. Daniele. Già ho capito chi è. Che cicciottello. Sì, proprio lui. Andà bene, ha già capito chi è. Sto prese pari mio. Non lo sapevo, Cercherà anche il tuo principale. Solo lì è il mio titolare. Titolare della vita. In via Milano, via di... L'altro già lo sai dov'è, l'altro negozio lì. Ia. Apro compreso, cazzo vai piccolo al mondo. Questa l'ha venuto parecchie volte da voi, o no? No, io non l'ho mai visto da noi, però so chi è. Fai chi so, Cosa tu? Quello lì è. Adesso c'è un'altra cosa in più. Visto, stanotte c'è un'altra cosa. Ma già ne conosco gente. Io la voglia tu mi dici di qualcuno e ti dico che persona è, perché purtroppo io ne conosco un bel personaggio. Eia Luca Ariello, finita di mandare messaggio. Eia, ne va tanto, adesso tra un po' chiudo, dai. Cava, vabbè, di là non sai niente lui per quella cosa. Bisogna telefonare, domani chiamo, ma mi sa che ancora non sono uscite, sono troppe le domande, sono troppe. Cava. Io sono avvicinato domani, ma sono di là domani mattina, capito? Domani mattina chiamo, domani è venerdì, così, domani chiamo. Via, domani è venerdì. Ho Daniele. Ehi, arrivi tu. Cosa c'è? La batteria è questo che trovo? No, questo è il microfono autoriginale questo apparato. Calma. O fai anche Maradouchi attesa in chimica, computer, qualche cosa accesa. Perché sento qualcosa sotto. Perché c'è. Siamo tutti qua, capito? Ma senti voci intorno che c'è. Sento proprio la modulazione. Rumore, aspetta un attimo. E adesso? No. E adesso? Sì, sento. Non forte. No, è un po' accentuato così, non. Si sente e basta, non è neanche fastidioso. Ehi, vabbè, a parte che esca bene in modulazione, dai, poi se non dà fastidio, pazienza. Asciuga quanto tempo è senza modulare adesso? Ehi, da un bel po' ero. Ciao ragazzi, ma Luca, riprendi, dai. Aspetta, arrivo. Ehi, ah. Stai facendo trasporti o 118? No, penso qua trasporti. No, trasporti stai facendo. Qua sì, di là facciamo anche 118. Ciao, ma non ti è sempre la misericordia? No, prima non lo vedo. Ah, ecco. Stavo assistendo in punto d'orecchie. Ma cosa sei, c'è una cooperativa, cosa sei? Non è che mi hanno messo, ma sono andato io da là. Sono ritornato dove ero prima. Ah, ho capito. Ah, a cagare. Hai capito? Aspetta, facciamo a cagare un po'. Giù c'è là, la si è rovinato tutto, faceva già la candela, capito? Vabbè, anche i trasporti poi sono fatti, sono un bene per l'associazione anche. Ah, vabbè, ma niente da dire, qua è un'altra musica, capito? Tutta un'altra antifona. Un po' degli enti è fissata con l'urgenza, è fissata. Secondo me in un'associazione ci vuole anche, vogliono fare anche i trasporti perché è un bene, sono soldi insomma che entrano in un'associazione, perché se non fai i trasporti l'urgenza non è che te la paghi, no? Gava! Ma non so che non puoi farti niente, Daniele. Sì, stavo a mangiare, non pensavo a mettere la sera, sempre andando nel torrente. Fitto. E a tu? La mia madre. Ciao, ragà, vedi che qua stanno anche parlando, non si capisce un tubo, là. Ho detto che stanno dalla mattina alla sera, sempre andando e tornando, ne sono parecchi pure loro. Già c'è un bel via vai, dai. Ce n'è per tutti i gusti. Ho voglia che venne. Sono giorni che sono trasporti uno dietro l'altro a raffica. Ma è quelli, sono quelli da contrattando. Tanto c'è un gioco che a pagare l'altro, non è così mansueta, se non lavori non ti guadagni qualche cosa così. Oiuia, rimane a culo a terra. Ciao ragazzi, aspetta un secondo, Antu. Aspetta che sto chiudendo, dai, buonanotte Daniele. Ehi Antu, dai, ci ascoltiamo alle prossime, non prosegue, buona giornata per domani, dai. Vabbè, mi ha fatto piacere dopo una marea di tempo. Già ci sentiamo più spesso adesso, dai. Riprendi Lu, se ci sei. Ma salutami la ragazza, devi scusarmi, cioè. Ho parlato appena colorito. Ehi, a lei la croce blu, via tu. Ale? Ma già? Croce blu, chi? Lei? Davvero? Ma chi è? Boh, non so se l'hai vista. Tanto, se la vedo, tanto l'accompagno io, quindi se mi vedi a me, vedi anche a lei. Come si chiama? A lei Lorena. No, non mi dire il cognome, dimmi il nome. È Lorena, mica un cognome. Lorena. Ah. Ma quando l'accompagni, chi c'era? Vabbè. Ciappa. Forse già mi avrà visto più di una volta. Può darsi. Ciappa, io sono convinto Marco che c'è una ghiaccia di bombole. Forse magari vi siete visti, chi lo sa. Ciappa, mi sono messo suonato con quella, con quella strada, insomma, dato il deposito. Chiava, chiava, anda bene, veda. Vabbè, dai, comunque, se dovesse capitare, la saluto, dai. Eia, va bene, dai, già contraccambio i saluti. Va bene, dai, a tu, ci sentiamo nel prossimo, lo proseguo, dai. Ah, eia, dai, ciao, ciao. Ok, dai, se capita, mi saluta, non c'è nessun problema, dai, già sono lì io. Non è difficile vedermi, ci sono ogni giorno lì. Anda bene, bene, dai, sei già, ti faccio salutare, dai. Se mi vedi entra nel rugancetto, non ti mettere problemi, dai. Io già ci sono, anche la mattina lì ci sono. La mattina e la sera, domani sera ci sono, domani sera, domani mattina a una certa ora, ci sono. Così che passa e non ti pone problemi, ormai come ci facciamo anche una chiacchierata. Ok Daniela, ce la risentiamo. Ehi Anto, va bene, ci sono con le perle già, io ci passo, dai. Già, non ti mettere problemi. Anda bene, veda. Ok, dai. Ciao Anthony, alle prossime. Ciao, ciao.